semaforo, fronteggio il l'oscillatore. Mentre così va bene, no? Col puntale del tester sopra l'oscillatore. Sì, così va più che ottima. Più quello che volevo non è faccio se non ricorda, che sta cercando di entrare in questo stato anche lui. E lo accettiamo. Nicky, si ascolti. Aspetta un secondo, sono Pedro. Ok, qua. Già sta, non vado ancora nella telegrafia, dai. Ma dimmi una cosa, lui dove è? Dove abita? Dove ci vuole? Comportatele dall'altra casa, non lo so. Va bene, ok. Se no può prendere anche una boomerang, c'è un terrazzino. Che cos'è? Stavo sondando, dimmi. Sentiamo un po' pronto.